Buongiorno. È stupefacente come dopo 4 anni che facciamo le nostre lezioni di jazz io debba sollecitare l'applauso dicendo buongiorno invece che automaticamente quando ecco, vabbè, ancora peggio. Cioè. Ormai io esco da lì e mi aspetto sempre, come dire, l'impatto, invece devo sempre lì a elemosinare l'applauso. Allora, oggi la lezione è dedicata a un musicista che molti considerano una delle figure più geniali della storia del jazz. Vedremo che è addirittura all'origine di molti atteggiamenti musicali, di molti anche concetti legati al jazz, e invece altri considerano una figura controversa, ancora oggetto di discussione, che viene ancora, come posso dire, discussa nei termini se davvero è un musicista così importante. Questa discussione avviene soprattutto negli Stati Uniti e poi cercheremo di capire, lo diciamo subito il perché, perché Bix Beiderbecke è stato il primo importante musicista di jazz bianco, ammesso che questo termine bianco voglia dire qualche cosa, e io sostengo che non voglia dire quasi niente in realtà, o meglio, voglia dire altre cose, non certo il colore della pelle. Ma siccome negli Stati Uniti in questo momento, soprattutto nella comunità afroamericana, c'è un grande dibattito di carattere, diciamo così, neoconservatore sul concetto a chi appartiene il jazz, se il jazz è una musica di tutti o se il jazz è una musica esclusivamente degli africano-americani, dei neri degli Stati Uniti, nell'ambito di questo dibattito i musicisti bianchi delle origini come Bix Beiderbecke sono oggetto di discussione. C'è qualcuno che li considera degli usurpatori del linguaggio vero ed altri che invece li considerano degli autentici innovatori. Noi cercheremo di dare il nostro contributo. Allora, innanzitutto, chi è Bix Beiderbecke? Molti sanno che Bix Beiderbecke è una figura diventata leggendaria perché è morto molto giovane, è morto a 28 anni, era nato a Davenport nell'Iowa, poi vediamo una cartina per vedere dov'è, perché sapere dov'è Davenport è molto importante, il 10 marzo 1903 ed è morto a New York City il 6 agosto 1931. Cercheremo tra poco di capire come mai questa vita è stata così breve, è stata spezzata così in maniera così precoce. Davenport si trova nell'Iowa, e vedete dove è il pallino rosso, in pratica lungo il Mississippi, perché il confine degli stati lì a destra è in realtà il fiume dato dal fiume Mississippi. Quindi volendo con un battello, per esempio da New Orleans, che è più a sud di questa cartina, si può risalire il Mississippi attraverso Memphis, arrivare a St. Louis e risalire su fino a Davenport. Come vedete, Davenport non è neanche lontanissima da Chicago, che nei primi anni 20 fu la vera capitale del jazz, quando moltissimi musicisti bianchi e neri lasciarono la città di New Orleans per andare a suonare principalmente a Chicago e solo in un secondo momento a New York. Quindi siamo in una zona di provincia, ma che in realtà è strettamente connessa dal nostro punto di vista a realtà che storicamente sono molto importanti. Abbiamo detto che nasce il 10 marzo a Davenport, nell'Ohio. La famiglia è una famiglia borghese, il padre è un commerciante di legname di origine tedesca, il suo nome era Bismarck Beiderbecke, probabilmente il nome Bix viene da questa abbreviazione di Bismarck, anche se Bismarck era il nome del padre, il suo vero nome era Leon Bismarck Beiderbecke, quindi Bix come Bismarck. La madre era una pianista dilettante quindi diciamo era la musicista di casa, e noi sappiamo che il piccolo Bix già a 3-4 anni, ce lo racconta la sorella, non arrivava neanche al pianoforte, era con i braccini che arrivavano sui tasti, provava a strimpellare le cose che ascoltava in casa, soprattutto musica di carattere religioso. La famiglia borghese lo vuole avviare alla, diciamo, a una carriera rispettabile. In realtà lui è già molto interessato alla musica, come vedremo, è già un ragazzo problematico, diremmo oggi, non va molto bene a scuola, è un personaggio un po' difficile, ha un fratello maggiore, una sorella maggiore, ma lui è un po' la pecora nera della famiglia. Lo mandano all'Accademia Militare di Lake Forest, ma lì si comporta talmente male, tra alcol, stravizi, non torna mai in tempo la sera, va a suonare, sparisce la notte, insomma fa un po' crea un po' di problemi e viene espulso dalla Lake Forest Academy. Per lui è solo una buona notizia, perché finalmente può dedicarsi compiutamente alla musica, frequentando soprattutto la scena di Chicago, che è la scena più vivace in quel momento. Fa una rapida carriera appunto a Chicago, e nel 1924 già incide i primi dischi con un gruppo che si chiama i Wolverines. Vi prego di notare in questa foto, che io trovo bellissima, l'aspetto anagrafico, cioè sono tutti giovanissimi. Bix qui ha 21 anni. In genere, quando pensiamo ai grandi musicisti del passato, ce li immaginiamo sempre adulti, maturi, impegnati, formati, ma il jazz all'epoca era una musica suonata da adolescenti o da ragazzi per adolescenti e ragazzi, come sempre, come dire, la musica popolare contemporanea. Anche oggi i ragazzi vanno a ballare al ritmo e ai suoni di musiche che sono spesso composte dai loro coetanei o da qualcuno poco più grande di loro. Quindi vedete proprio in questa foto l'atteggiamento un po' così, molto rilassato, anche con un tocco di posa un po' fighetta, diciamo così. E su questo, che cool si direbbe in inglese, su questo poi torneremo. Dopodiché nel 1924 fa un incontro fondamentale, che è quello con un altro musicista dal cognome tedesco, Frankie Trumbauer, che suonava uno strumento che non è quello che vedete lì nella foto, che era il sax in do, è quello che vedete nella foto in alto a sinistra, uno strumento oggi desueto, di cui Trumbauer fu un importante esecutore. Suona con vari gruppi, incide dei dischi importanti, si muove soprattutto più che fra Chicago e Detroit, queste sono le sue, diciamo, i luoghi, finché nel 1926 non entra in un'importante orchestra di Detroit, che è l'orchestra di Jean Golquet, che fa sostanzialmente musica da ballo, musica leggera, a cui Bix aggiunge un tocco di jazz. Lo vedete lì nella foto sorridente, incide dei dischi con Golquet. L'altro giorno, riguardando questa foto, ho notato con una qualche inquietudine la pistola in mano al bassista Steve Brown, seduto sul cofano del pulmino. Poi nel 1927 il grande salto professionale. Bix diventa sempre più apprezzato e entra addirittura nell'orchestra di Paul Whiteman, che è come se, non lo so, mi chiamassero oggi a suonare con Lady Gaga. Cioè è praticamente l'orchestra più importante degli Stati Uniti e forse la più famosa orchestra da ballo del mondo, e quindi anche l'orchestra in cui si viene meglio pagati e remunerati. È un esito eccezionale. Bix, peraltro, come vedremo, ha dei sentimenti ambivalenti nei confronti di questa esperienza. Diciamo subito questo, che nel frattempo la famiglia non aveva affatto visto di buon occhio la carriera di Bix musicale. Il fatto che lui facesse un musicista per questi commercianti era un'onta. Non solo era un'onta fare il musicista, peggio, era un'onta fare il musicista di jazz, perché il jazz all'epoca era associato in maniera molto forte con un'idea di bassi fondi, posti poco salubri, droga, delinquenza, malavita, Ricordiamoci che tutti i più importanti locali, sale da ballo, cabaret erano in mano a personaggi come Al Capone, c'era il proibizionismo, la mafia non solo controllava i locali, controllava la politica, eleggeva i sindaci, i consiglieri comunali, e quindi il jazz era in una situazione, ahimè, molto simile a quello che accade in certe parti d'Italia. Lì accadeva regolarmente in tutto il paese, e quindi per una famiglia perbenista andare a fare il musicista di jazz, bianca perbenista, voleva dire macchiarsi di un'onta. Questo rifiuto della famiglia avrà un peso notevole sulla psicologia di Bix. Qualcuno l'ha anche un po' sopravvalutato, ma effettivamente avrà un peso notevole. Pensate che Bix mandava regolarmente, orgoglioso di suonare con la più importante orchestra d'America, mandava regolarmente a casa i dischi che faceva con Paul Whiteman. Tempo dopo quei dischi sono stati ritrovati intonsi dentro gli scatoloni, i genitori non li avevano neanche aperti. Quindi c'era sicuramente un elemento di frustrazione. In più la carriera di Bix ebbe continuamente degli alti e bassi, perché Bix aveva due problemi, chiamiamoli psicologici. Il primo era di natura tecnica musicale. Bix praticamente non leggeva la musica. Aveva un orecchio incredibile. Vorrei, qui dentro magari ci sono tra il pubblico persone che non hanno, come dire, un rapporto professionale o molto approfondito con la musica. Vorrei ricordare a queste persone che la musicalità non si misura con la capacità di leggere la musica. Sono due cose completamente diverse. Uno può essere un grande poeta orale senza saper né leggere né scrivere. Lo stesso vale per la musica, ancora di più per la musica. Saper leggere la musica, come dire, è un sussidio tecnico che si acquisisce molto rapidamente, è una cosa piuttosto facile da acquisire, ma non è minimamente correlata alla musicalità. Puoi essere un genio della musica e rifiutarti di imparare a leggere le note sul pentagramma. Bix era così. Aveva una specie di blocco psicologico, cosa che tra l'altro gli ha dato un sacco di problemi anche a livello proprio professionale. Per esempio, all'inizio non riuscì a iscriversi al sindacato dei musicisti, perché per iscriversi al sindacato dovevi passare un esame in cui dovevi leggere la musica. E una volta passò questo esame e disse sì, io so leggere, e l'esaminatore disse leggi da qui, e lui non riuscì a suonare una nota. Quindi immaginate l'umiliazione e la frustrazione, però fu una specie di blocco. E questo in un certo senso lo ha danneggiato, perché gli ha impedito anche di crescere, a parte la morte prematura, di crescere musicalmente. Il secondo problema era l'alcolismo. Vi ricordo che siamo nell'epoca del proibizionismo, e come tutti i proibizionismi lo sappiamo bene anche noi, più si proibiva l'alcol e più la gente lo consumava. E Bix era una delle vittime di questa dipendenza, e forse questa cosa, come vedremo fra poco, è la cosa che lo ha portato alla morte prematura, ma sicuramente aveva dei grossissimi problemi di alcolismo. L'alcolismo, tra l'altro, era estremamente diffuso nel mondo del jazz bianco. Tutti i suoi amici bevevano. L'elemento di, come posso dire, di coesione di gruppo era proprio dato dal bere. Dal bere fino a sfinirsi, dal bere fino a non tenersi in piedi, dal bere fino a svenire. E questo gli ha creato continui problemi con Paul Whiteman. Poi a un certo punto lui stesso, di sua iniziativa, decide di lasciare Whiteman. Ha dei problemi di salute, come vedremo, abbastanza misteriosi, vertigini, sviene, non riesce a camminare bene. E fra il 1929 e il 1931 fa vari lavori radiofonici, incide dei dischi, qualche concertino, esce però dal giro grosso, quello con cui quello che gli consentiva di lavorare con Whiteman. Nel frattempo si era fatto crescere i baffetti su consiglio di amici dell'orchestra di Whiteman, sembra che fosse, come dire, più alla moda, più figo appunto. E a un certo punto però Bix ha tutta questa serie di problemi di salute che sono piuttosto gravi per un ragazzo di soli 28 anni, e nell'estate del 1931 il colpo di grazia gli viene dato da una polmonite che, dopo aver avuto tra l'altro un collasso, finisce in ospedale, insomma, alla fine una polmonite che insomma, lo uccide. La morte di Big Spider, il 6 agosto 1931, colpisce profondamente i suoi amici che vedono scomparire un loro coetaneo, giovanissimo, un musicista dotato di un enorme talento. La morte di Big Spider ha fatto, così giovane, ha fatto poi nascere la leggenda di Bix, di cui dirò qualcosa fra breve. Ma prima di parlare della leggenda, vorrei soffermarmi su una scoperta recentissima fatta da uno studioso, una notizia che ha circolato solamente negli ambienti specialistici, quindi mi fa piacere condividerla con voi. Randy Sandke, che è un grande trombettista e un grande studioso di Big Spider, ha fatto uno studio sugli effetti dell'alcolismo negli Stati Uniti degli anni 20 e ha rivelato una cosa che gli specialisti di questa materia conoscono, ma non gli appassionati di jazz, e cioè che intorno al 1926 ci fu una specie di guerra dei chimici negli Stati Uniti. Che cosa intendo? Inizialmente la mafia, per aggirare la proibizione della vendita dell'alcol, importava alcol principalmente dal Canada e da altri paesi, alcol etilico, con cui venivano fatti i liquori. A un certo punto il governo statunitense riuscì a stroncare questo commercio illegale di alcol dagli altri paesi. Anziché, come dire, impedire in questo modo di smerciare l'alcol, questo blocco delle importazioni spinse la mafia a adottare una strategia diversa. Cominciarono a rubare l'alcol industriale dalle industrie degli Stati Uniti, l'alcol metilico, che è un alcol che praticamente il corpo umano non riesce a smaltire. Quindi i mafiosi ingaggiarono una serie di chimici che avevano il compito di aggiungere sostanze, diciamo di fare un po' degli stregoni e rendere commestibile quest'alcol. Il governo americano cosa fa? In particolare il presidente Coolidge, evidentemente molto mal consigliato, decide di contrattaccare ingaggiando dei chimici, sapendo che comunque non riuscivano a impedire il furto dell'alcol industriale, e questi chimici avevano il compito di rendere quest'alcol industriale ancora più tossico, ancora più schifoso, ancora più imbevibile, in modo da rendere la vita dura ai chimici assoldati dalla mafia. Il ragionamento dei consiglieri di Coolidge, evidentemente dei forti propugnatori del proibizionismo, fecero questo ragionamento assurdo, dissero: facciamo un alcol così schifoso, ma così schifoso, che la gente smetterà di berlo. Noi sappiamo che non funziona così la dipendenza. Il risultato qual è? È che dopo il 1926, in questa guerra dei chimici, cominciò a circolare negli Stati Uniti un alcol talmente pessimo che la gente cominciò a morire. E si parlò addirittura del proibizionismo, come del 18° emendamento, come di una legge killer. Perfino i giornali conservatori, che erano a favore del proibizionismo, cominciarono a porsi la domanda: ma ne vale la pena? Perché cominciavano a morire centinaia e poi migliaia di persone all'anno, tutti con gli stessi sintomi: vertigini, svenimenti, sudore freddo, difficoltà a camminare. Proprio addirittura Bix racconta che dopo manda una lettera a Trumbauer e gli dice: sto reimparando a camminare dopo aver avuto un collasso, andava in giro col bastone. Sono gli stessi sintomi che gli amici non comprendevano, che hanno afflitto Bix Beiderbecke negli ultimi 2 anni della sua vita. Probabilmente Bix a Cleveland, perché dove ebbe un primo collasso durante un concerto con Paul Whiteman, dovette aver bevuto questa miscela terrificante è stato praticamente avvelenato, è uno delle vittime di questo avvelenamento, di questa guerra insensata, proibizionista, fra il governo americano e la mafia che controllava il commercio illegale degli alcolici. Questa è la scoperta più recente sulla morte di Bix, ma in realtà la morte di Bix, così prematura, di un personaggio geniale, controverso, malinconico, misterioso, ha Bianco poi, che suona in maniera meravigliosa la musica che hanno inventato i neri, ha fatto fiorire una vera e propria leggenda intorno al suo personaggio. Questa leggenda ha avuto una prima incarnazione in un romanzo uscito nel 1939, Young Man with a Horn, e notizia meravigliosa, per la prima volta è stato tradotto in Italia lo scorso anno, alla fine del 2015, è uscito con il titolo La leggenda del trombettista bianco. È un libro che vi consiglio di leggere perché è bellissimo, è veramente magnifico. Io dico la verità, l'ho letto in queste settimane per prepararmi a questa conferenza, perché appunto era in edizione inglese e non l'avevo mai letto. E ho scoperto un libro straordinario. Dorothy Baker era un'insegnante di inglese in un'università statunitense, questo era il suo libro, fu il suo libro d'esordio, e dopo aver scritto dei racconti, e rivelò al mondo una scrittrice di primissimo livello. La leggenda del trombettista bianco è stata ulteriormente rafforzata da dischi dedicati a Biggs, soprattutto dai suoi amici, nei primi anni 50, e anche da un film che fu tratto dal libro di Dorothy Baker. In Italia uscì con il titolo Chimere, con un improbabile Kirk Douglas, che mostra il doppio degli anni, diciamo, del personaggio. Però nel film c'è anche Hoagy Carmichael, il compositore, ci torneremo dopo, di canzoni, che è stato realmente amico di Bix Beiderbecke. Il film, ve lo dico subito, non è un granché, però insomma è come dire, un altro tassello di questa leggenda di Bix Beiderbecke. A livello cinematografico sono stati fatti anche dei documentari su Bix Beiderbecke, ma forse il film più noto è quello che gli ha dedicato il nostro Pupi Avati nel 1991, che ha fatto una cosa molto meritoria. Pupi Avati, che voleva fare da tempo un film su Bix Beiderbecke, aveva scoperto che la casa dove era nato Bix a Davenport era in vendita. Questo piccolo monumento della cultura americana rischiava di essere perduto, quindi lui stesso l'ha comprata, quindi salvandola, come dire, da una destinazione ignota, e dopo averla comprata ha girato proprio, tra le altre cose, nella casa di Bix una parte di questo film, che è un film, diciamo, che è un buon film, sicuramente migliore di Chimere. Purtroppo non si trova in DVD, ma lo trovate integralmente su YouTube, liberamente visibile su YouTube. Io vi faccio vedere, prima di entrare nel vivo della musica di Bix, una scena di Bix, un'ipotesi leggendaria, perché ci fa entrare molto bene nel clima nel quale questa musica veniva prodotta. Siamo a Detroit, all'Arcadia Ballroom, nel 1924-25, c'è l'orchestra di Frankie Trumbauer, dentro la quale lo vedrete con i baffetti che suona il sax in do, c'è Bix con un attore un po', diciamo, più caruccio di come era, come spesso succede al cinema, di come era realmente Bix, ma quello che vedrete molto fedele nel film di Avati è, uno, l'ambientazione, come era un grande cabaret e metà cabaret, metà sala da ballo, con i tavolini per mangiare, la pista per ballare, il palco con i musicisti sopra, e soprattutto vedrete una cosa che mancava, per esempio in Chimere, l'aspetto, come vi dicevo, anagrafico, generazionale, sono tutti dei ragazzini. Ecco, come mai tutto questo entusiasmo per i bianchi che suonano il jazz? E poi diremo qualcosa adesso anche sullo strumento che suona Bix. Tutto questo entusiasmo ha a che fare con una realtà piuttosto particolare, e cioè, possiamo rimettere le luci in sala, grazie, con una realtà piuttosto particolare, cioè dobbiamo ricordarci questo: il jazz è una musica che è stata inventata, in particolare a New Orleans, da musicisti neri, appartiene alla comunità africano-americana, è il prodotto di quella cultura. Naturalmente non è il prodotto di quella cultura chiusa, sotto vuoto spinto, è una cultura che ha dialogato, si è fusa, si è incontrata con quella italiana, ebraica, latinoamericana, ne abbiamo parlato qualche anno fa in un'altra lezione. Però indubbiamente l'imprinting, le caratteristiche principali sono state date dai musicisti neri. Vi dovete ricordare che stiamo parlando di un'epoca, gli anni 10 e gli anni 20 degli Stati Uniti, in cui c'è un vero e proprio regime di apartheid. Non stiamo parlando di una società razzista all'acqua di rose. Stiamo parlando di una società razzista che è governata dal terrorismo del Ku Klux Klan, dove morivano decine se non centinaia di persone bruciate vive, impiccate, solo per tenerle terrorizzate al loro posto, dai bianchi. Dobbiamo parlare di una società in cui era per legge proibito in tutti gli stati della federazione il matrimonio interrazziale fra bianchi e neri. Era proibito, per legge. C'era una sentenza della Corte Suprema che imponeva una vita separata, per cui c'è il gabinetto per i bianchi, il gabinetto per i neri, c'è la fontanella per abbeverarsi per i bianchi e a fianco la fontanella per abbeverarsi per i neri. Pensate a tutto il resto, quindi. Scuole per bianchi, scuole per neri, per non parlare dell'impossibilità di accedere alle professioni, al lavoro, eccetera, eccetera. Il mondo nero, quindi, un mondo lontano, separato, inferiore, che dei ragazzotti bianchi, alcuni di origine proletaria, penso per esempio a Benny Goodman, molto proletaria, altri di origine borghese, come per esempio Bix Beiderbecke, abbracciassero la musica di quelli che fino all'altro ieri erano stati degli schiavi, gli schiavi nella loro casa. Questo era inaccettabile per molti, per esempio per la famiglia di Bix era inaccettabile. Il jazz funzionò per questi giovani degli anni 20, esattamente come il rock and roll negli anni 50, un atto di ribellione. Abbracciare questa musica fisicamente liberatoria, sessualmente disinibita, creativamente libera, voleva dire mandare al diavolo mamma, papà, il lavoro tradizionale di casa, tutti i valori borghesi, oppure voleva dire emanciparsi, come nel caso di Jim Krupa o Benny Goodman, da un ambiente di miseria, dalla periferia, dalla bettola, e provare a lavorare nel mondo dello spettacolo, dove comunque hai sicuramente più dignità che in un quartiere poverissimo. E guadagni sicuramente di più. Se hai del talento, ovviamente, perché questo non vale per tutti, vale per quelli che hanno un talento musicale. La musica è un'opportunità. E in più ha questa carica liberatoria. Ecco, questo è il punto chiave che dobbiamo comprendere. I musicisti di jazz bianchi di jazz abbracciano questo linguaggio in maniera molto rapida, molto veloce. Bix è uno dei primissimi a farlo, come un atto di ribellione. Si sentono realizzati con questa musica. Torneremo su questo. Avete visto che Bix non suona proprio la tromba. Nel film di Pupi Avati, da questo punto di vista, è filologicamente molto accurato. Bix suonava e ha suonato per tutta la vita la cornetta, anche se in qualche fotografia, come quella con i baffetti, ha in mano una tromba, ma in realtà ha suonato per tutta la vita la cornetta. Sono due strumenti che hanno un suono molto simile, a volte nelle vecchie registrazioni si fa anche fatica a distinguerli. Da un punto di vista morfologico, come vedete, sono molto diversi, anche perché la cornetta, come dice il nome stesso dello strumento, è un piccolo corno, proprio come il corno sinfonico, più piccolo, scusate, è un corno più piccolo e ha un suono, diciamo, meno squillante della tromba, con un po' meno proiezione, un suono più rotondo e anche un po' più, come dire, più staccato, se mi consentite un termine non proprio tecnico, ma l'articolazione dei suoni è un po' più scrocchia di più, diciamo così, il legato è meno percepibile sulla cornetta, e questo è un aspetto fondamentale. C'è da dire che Bix poi suonava la cornetta in un modo tutto speciale, perché non l'abbiamo ancora detto, ma Bix era completamente autodidatta, totalmente, non ha mai preso lezioni da nessuno. Frankie Trumbauer gli ha insegnato a leggere qualche nota, ma abbiamo visto con esiti poco felici. Bix era totalmente autodidatta, e anche nel modo in cui schiacciava i pistoni utilizzava delle tecniche del tutto non ortodosse, tutte sue, che sono state studiate da alcuni trombettisti e hanno consentito a Bix di ottenere quel suono così particolare che oggi ci incanta, il fatto che lui non suonasse secondo le tecniche accademiche. Come ha scoperto, come si è formato il linguaggio di Bix? Un rapido catalogo. Quando è adolescente, il fratello compra i dischi di una band di New Orleans che stava avendo successo, l'Original Dixieland Jazz Band, che fa i primi dischi di jazz nel 17. Bix rimane folgorato, è quello l'elemento che gli fa, come dire, gli fa svoltare la vita. In particolare imita la cornetta, lo vedete, il secondo da destra, di Nick LaRocca, e si mette a copiare, ascoltando e riascoltando i dischi, con la sua cornetta a casa, le parti di Nick LaRocca. Quando va a Chicago, ha modo di andare in un locale dove ci sono i New Orleans Rhythm Kings, c'è una bella scena nel film di Avati in cui si vede questo momento, e fa jam session con loro, non suona con loro durante gli spettacoli regolari, ma alla chiusura del locale si ferma con loro e impara, ascolta, approfondisce. Erano appunto tutti di New Orleans, bianchi. Loro portavano il jazz bianco da New Orleans. Poi c'è un personaggio leggendario. Tutti i testimoni dicono che lo stile di Bix sembra originale, perché noi non abbiamo mai avuto la possibilità di ascoltare, come ci dicono questi testimoni, un trombettista di New Orleans, morto anche lui giovanissimo, di febbri malariche, Emmett Hardy, che pare suonasse proprio nello stile che poi ha ripreso Bix. Bix l'ha ascoltato? È possibile. Ricordatevi che Bix ascoltava in realtà molti gruppi di jazz, non solo dai dischi. Emmett Hardy non ha registrato dischi, noi non sappiamo come suonasse, ce l'hanno raccontato. Ma in realtà Bix poi ascoltava molto jazz dai battelli che venivano su da New Orleans, che passavano, abbiamo visto, da St. Louis e potevano arrivare anche fino a Davenport. Sappiamo che da ragazzino saliva sui battelli per andare a suonare sul pianoforte o sull'armonium o per ascoltare i gruppi che suonavano lì sopra, quando il battello era fermo in rada. E poi quando è andato a Chicago è stato uno dei pochi musicisti bianchi che si è avventurato nel quartiere nero, nel South Side di Chicago, per andare a sentire i musicisti neri, il verbo con la V maiuscola, tra cui King Oliver, con la Creole Jazz Band, dentro cui dal 1922 militava il giovanissimo Louis Armstrong, che vedete inginocchiato in primo piano, in questa foto pubblicitaria. Quindi Beiderbecke ha subito varie influenze, poi ce n'è un'altra di tipo classico che vedremo però più avanti, e che gli hanno consentito di plasmare il suo stile, che però è originalissimo. E allora io direi che la prima cosa che potremmo fare è cominciare ad ascoltare un disco di Bix. Uno dei suoi più famosi, Davenport Blues. La parola blues non indica il fatto che il pezzo sia un blues. La parola blues veniva usata come una specie di prezzemolo nei titoli dell'epoca, perché faceva vendere. Siccome c'era la moda del blues, anche i pezzi che non erano blues ci mettevano la parola blues, così erano sicuri di vendere. È una composizione di Bix, bellissima. Lo vedete, è il secondo da destra, Bix. Vedete anche come registravano i dischi. Lì al centro c'è il cono della Gennett Records, dove si registra, tra l'altro nel film di Avati c'è un'altra foto, c'è una citazione proprio di questa scena in cui loro registrano, e sono dei ragazzini, come vedete. E ascoltiamo Davenport Blues. Qual è la caratteristica che sentirete? Vi punto su due cose solamente. Primo, è un jazz molto tranquillo, molto rilassato, fresco, cool, con una posa molto controllata. Due, è molto, molto melodico. L'approccio di Bix Beiderbecke non è quello esuberante, scintillante, da Fuochi d'artificio di Louis Armstrong o viscerale blues come King Oliver. No, è melodia, melodia pura, canto, con questo suono della cornetta pulitissimo e incredibilmente lirico. Questa è una parola chiave che abbiamo messo anche nel titolo della conferenza. Questo è Davenport Blues. Qui cogliamo una prima novità dello stile di Bix Beiderbecke. Questo non è un jazz esuberante. Il jazz così non si era mai sentito. Questo è diventato un disco leggendario quando uscì. È come quando ci capita oggi, a volte raramente, di ascoltare qualcosa e dire mamma mia, questa è una cosa completamente nuova, completamente diversa. Davenport Blues ebbe questo effetto. Il pubblico rimase, soprattutto gli appassionati di jazz, rimasero sconcertati. Ma come, il jazz non è quella musica eccitante, veloce, che fa ballare, oppure un blues strascicato, melanconico. No, qui è qualcosa di mezzo. È ritmato, ma è quieto. È, come dire, ha una spinta energica, ma è molto melodico. Però sembra rivolto all'interno. Attenzione, questo è un altro punto chiave. Bix sembra guardarsi dentro, Louis Armstrong sputa fuori le note, le tira fuori con energia, invece qui guardiamo un personaggio che si rivolge, come dire, all'interiorità, è un tono nuovo per il jazz, un'atmosfera che il jazz non aveva mai sperimentato fino a quel momento. Quindi, e questo è il primo elemento di novità che dovremmo far notare a chi ha dei dubbi, diciamo, sulla validità della musica di Bix Beiderbecke, il jazz acquisisce un elemento espressivo nuovo che prima non aveva. Posso fare jazz e suonare sottovoce, essere lirico. Vi ricorda qualcosa? Miles Davis, Chet Baker, Bill Evans. Vengono da qui, dal fatto che Bix ci ha aperto la porta di un jazz riflessivo. Non solo riflessivo, ma anche melodico fino al sublime. In particolare in quello che è tutt'oggi il disco di culto più famoso, più studiato, più analizzato di Beiderbecke, un disco del 1927, il 1927 è l'anno d'oro di Bix, e prima della crisi di Cleveland, prima che poi lui nel 28-29 cominci a stare male, e Singing the Blues viene registrato a nome di Frankie Trumbauer, sentirete questo sublime sax in do, molto melodico, carezzevole, cremoso quasi. Sentirete la chitarra di Eddie Lang, il più grande chitarrista del suo tempo, un altro musicista bianco che ha forgiato uno stile che per sei neri non c'era. Era, in realtà era molisano, si chiamava Salvatore Massaro. E Eddie Lang era uno pseudonimo che veniva da un giocatore di baseball che gli piaceva molto. Noi adesso ascoltiamo per intero il disco Singing the Blues e poi entriamo nei dettagli dell'assolo di Bix. Chitarra di Eddie Lang. Guardiamo insieme alcune caratteristiche dell'assolo di Bix Beiderbecke. La prima cosa che salta all'occhio sono due caratteristiche. La prima è che, contrariamente ai trombettisti neri dell'epoca, quasi tutte le frasi di Bix Beiderbecke sono discendenti. Cominciano da una nota alta e finiscono giù. In genere il jazz c'ha questa spinta, no, a esuberante, a salire, a scalare gli effetti, come dire, la melodia, a dare un senso di climax. Invece le frasi di Bix sono continuamente anticlimax, sono continuamente un ripiegarsi. E però in questo effetto di ripiegamento intanto c'è un elemento architettonico, cioè dentro le frasi ci sono delle rime interne, delle frasi che tornano un po' dopo e che rimano, per esempio all'inizio. Sentirete le frasi discendenti e queste rime interne. Ta ta ta di ta ta ta rima ta ti ta ta ta e poi sviluppo. Ta ta ti ta tu ti tu ti tu ta e tutte e tre le frasi scendono. Poi lui plasma, e sentiremo un altro esempio anche dopo di questo, il suo pensiero musicale in un modo particolarmente raffinato, con la dinamica delle note. Vi prego di aguzzare le orecchie. Ci sono delle note suonate forti e delle note suonate piano, delle note suonate mezzo forte e altre mezzo piano. È come uno scultore che fa, in basso rilievo, modula gli spessori delle note e ci dà il senso della forma attraverso questo continuo cambiamento di dinamica. Ma guardate che è una cosa rapidissima, fateci attenzione, è da una nota all'altra, pianissimo, fortissimo. È un fatto di fiato, di tecnica, naturalmente, in cui l'elemento melodico però è, come dire, plasmato dalla dinamica. Poi ci sono dei punti in cui lui tende, giocando con i pistoni o con le labbra, a schiacciare i suoni. Qui ce n'è un esempio, ma poi ne sentiremo anche altri. Ed è tipico del suo stile. È qualcosa di vagamente blues, che lui evidentemente ha ascoltato dai musicisti bianchi, scusate, volevo dire il contrario, musicisti neri, ovviamente, a Chicago. E poi ci sono delle improvvise accelerazioni che lui fa, utilizzando delle figure musicali più rapide, ma sempre all'interno delle frasi discendenti e compensando queste accelerazioni con la rima. La rima qui, sentirete, è fatta da tre note, pa, pa, pa. Questa figurazione ritmica, pa, pa, pa, al 90% l'ha presa da Louis Armstrong. Era un tratto tipico del suo stile giovanile. Rima. Ok? L'ultima cosa che faccio notare è un po' più, come dire, da specialisti, è quella che... Scusate, partito subito l'esempio, ma tanto ce n'è un altro. È quello che tecnicamente si chiamano le ghost notes, cioè le note fantasma, cioè delle note che suoni e non suoni, le fai sentire e non le fai sentire. In genere queste ghost notes sono note vicine, invece Bix faceva dei salti, per esempio così. La prima nota si sente o non si sente? In genere le ghost notes sono vicine, per esempio così. Invece Bix le faceva a salto. Una cosa che molti anni dopo riprenderà il trombettista Clifford Brown. E sono un altro tratto essenziale del suo stile. Adesso riascoltiamo l'assolo per intero. E alla fine sentiremo le ghost notes. Se c'è una cosa incredibile di Bix Beiderbecke è l'ispirazione melodica. Questa è un'ispirazione melodica non preparata. Questo solo che sembra di una perfezione assoluta, lui lo poteva fare diverso un minuto dopo. Aveva un senso istintivo, fluido, libero della melodia. Se dovessi affiancarlo a qualcuno, penserei a Schubert. Cioè personaggi o a Bellini. Personaggi per i quali l'armonia conta e non conta, è la melodia che è tutto. ed è una melodia che sgorga con una facilità incredibile, ma anche con una complessità architettonica, avete sentito? Rilevante, piena di sottigliezze. E questo è il pensiero di Bix, inventare melodie fresche che nessuno ha mai sentito prima, neanche nel jazz nero. A questo punto, dopo essere entrati nel dettaglio, vi lascio godere il secondo disco di culto, per me il primo in realtà, di Bix Beiderbecke. I'm Coming Virginia, una canzone di un compositore afroamericano, Maceo Pinckard, una canzone degli anni 10. Bix fa l'assolo nella seconda parte, è la stessa formazione che avete sentito prima, sentirete D. Lang, sentirete Frankie Trumbauer. E adesso che avete qualche elemento in più, godetevi questo momento di melodia straordinario. Questo è il tema. Power. Non so, l'incanto, non saprei che altro termine usare, non voglio neanche analizzarlo, un pezzo così. Vi faccio risentire la sola. Qui parafrasa il tema. Allarga un po'. Tocco di blues. Le frasi discendenti. buono, quasi dorato. Finali. C'è un altro disco straordinario che poi analizzeremo meglio con una solo che ci mostra un altro aspetto di Bix. Noi in genere associamo l'idea di melodia a qualcosa di semplice che ci si dire, ci colpisce e ci si fissa in testa, cantabile, che riusciamo a rifare, a ricantare. Il senso melodico di Bix Beiderbecke in realtà era un senso melodico complesso. A volte si appoggia al tema originale, come quando nell'attacco di I'm Coming Virginia è il tema originale che lui parafrasa. Altre volte si inventa delle frasi estremamente articolate che suonano fresche, originali, con questo suono un po' scrocchiante, l'avete sentito, no? Tipico della cornetta e delle sue diteggiature non ortodosse, che però sono appunto fresche, melodiche, ma non semplici. Jazz Me Blues, che fa parte sempre della stessa serie di registrazione del 27, è un esempio di questi. Torneremo più avanti su un frammento di questa solo perché ci dice una cosa molto interessante, ma intanto ascoltiamo il brano. Ci sono due versioni. La prima, che per molti è quella di culto, altrettanto bella, è del 1924, con i Wolverines. Qui l'elemento introspettivo è pazzesco, è ancora più marcato che in tutti gli altri dischi. Sembra che Bix suoni con la campana rivolta verso se stesso. Thank you. la registrazione del 27, è un po' più lenta, ma ha lo stesso relax, cool, e l'assolo è più estroflesso, più complesso e più audace. I compagni non sono molto all'altezza, diciamoci la verità. Il clarinettista è meglio, Don Murray. Però quando entra lui... Pezzi come questo vediamo un'altra caratteristica che nel gergo del jazz ha un nome preciso, il tirare indietro. C'è questa cosa che lo swing sembra rallentare, sembra frenare, no? Cioè non è una spinta in avanti, ma è questo ta, ta, ta, ta, ta, come se dovesse continuamente opporre resistenza al ritmo e andare avanti in maniera sì elastica ma particolarmente pigra. Sottolineiamo questo. Voglio farvi sentire un brano con l'orchestra di Jean Golquet per un motivo molto preciso, per due motivi. Il primo, qui vedete l'orchestra di Golquet con Bix al centro. Il primo motivo è che per gran parte della sua vita professionale Bix Beiderbecke ha passato le sue serate, in cui faceva il musicista professionista, ad aspettare il suo momento per fare un breve assolo. Siccome Bix non sapeva leggere la musica, quando suonava in un'orchestra come quella di Golquet, stava seduto al suo posto, a tutt'al più poteva imparare a memoria delle parti, perché tanto non leggeva, e laddove non imparava a memoria le parti aspettava che arrivasse il suo turno per alzarsi e fare un assolo che poi era la cosa che tutti aspettavano. Non solo l'aspettavano all'epoca, ma l'aspettiamo anche oggi. Cioè noi oggi ci ritroviamo per esempio con 20-30 dischi di Golquet, che sono dischi di musica leggera dignitosa dell'epoca, solo per poter ascoltare quelle 16 battute di Bix in 3 minuti di musica, spesso con canzonette di infimo livello come quella che stiamo per ascoltare, di cui l'unica cosa che ha a che fare con l'orgoglio sta nel titolo, Proud, ma per il resto veramente la canzone è quella che è. C'è un gruppetto vocale, un trio femminile se non ricordo male, che accompagna, ma la cosa fantastica di questo pezzo tutto da dimenticare è appunto l'assolo di Bix, che è veramente forse l'epitome di quello scolpire il suono con la dinamica. Non c'è una nota che abbia la stessa dinamica di un'altra. È tutto uno scoppiettare tra piano e forte. E per dare particolare importanza a questa caratteristica, vi infliggo l'ascolto integrale del disco, del pezzo, dura 3 minuti, ma anche per farvi capire come poi qual era la cornice professionale nella quale Bix poi trovava modo di esprimersi, non in jam session, in cui poteva magari suonare per mezz'ora di seguito, ma sera dopo sera per guadagnarsi da vivere. Ovviamente musica suonata molto bene, eh? Poi la canzonetta è quella che è. Sono anche gli archi. Musica da ballo. Tipico trombettista dell'epoca. Sentite la dinamica. Finito. Di Gershwin alla fine, in realtà io scherzo, poi la musica è eseguita benissimo, l'arrangiamento è immaginoso, la canzone è quella che è piena anche di humor con l'arrangiamento del trio orchestrale, ma noi siamo lì a caccia di quelle 16 battute di Bix che sono incredibilmente piene di fantasia all'interno poi di un contesto che era tutt'altro. Saltiamo un attimo questa cosa. Scusate. Ora, le idee melodiche di Bix Beiderbecke erano talmente continue, forti, che gli stessi orchestrali per i quali lavorava ne approfittavano. Per esempio, ci sono in diversi casi, sia nel caso di Goldkette, sia nel caso di Paul Whiteman, delle situazioni in cui capita che Bix si inventa una, questa è la sezione trombe dell'orchestra di Paul Whiteman, Bix è il secondo da sinistra. Bix inventa delle frasi, l'arrangiatore dell'orchestra, che era un suo amico, Bill Challis, le trascrive perché Bix non è in grado di scriverla. Però ha queste continue idee, magari sono lì a provare, immaginate, no? Oppure fanno, provano il pezzo e lui fa una solo. O fa una frase durante una prova, o una pausa, e il tipo gli fa, aspetta, com'è? Rifalla, ammesso che fosse in grado di rifarla, la trascrive, e Challis poi armonizza le frasi di Bix per tutta la sezione trombe. Cioè le parti orchestrali di Paul Whiteman, in alcuni casi, non sono altro che idee sciorinate da Bix e riorchestrate per tutta la sezione. Qui sono Clemente, non vi faccio sentire il pezzo intero, che è I'd Rather Cry Over You, e vi faccio solo sentire un frammentino, sono 8 battute, brevissimo, aguzzate le orecchie, c'è tutta la freschezza melodica di Bix, addirittura ci sono le ghost notes, da, quelle note fantasma, che sono fatte da tutto l'ensemble. No, ho messo tutto il pezzo, scusate, lo salvo. Ho fatto un errore. Aspettate un attimo. Vi faccio sentire solamente... Dov'è? Mi sa che ho messo il pezzo intero, sapete che non mi ricordavo il dettaglio. Peggio così, allora vi beccate il pezzo per intero. No, ecco perché l'ho messo per intero, perché volevo farvi sentire anche l'orchestra di White. Vabbè, lo sentiamo per intero. Era un'orchestra sontuosa, con gli archi, arrangiamenti molto ricchi. Più avanti sentirete un trio vocale, che era un trio magnifico, in cui si è formata la voce di Bing Crosby, che è uno dei 3 cantanti. Vi ricordo che Paul Whiteman era il musicista che pochi anni prima aveva commissionato la Rhapsody in Blue a George Gershwin. Ora, prossimo esempio, entriamo in questo aggettivo cool, che nella lingua inglese ha avuto vari significati. Il suo significato principale è fresco. Oggi nel gergo vuol dire figo. Quando sentite nei film americani il doppiaggio dice ah, è molto figo, guardate il labiale, dicono cool. In realtà il termine ha una, come dire, un campo semantico un po' più ricco che soprattutto nel mondo del jazz, ma non solo nel mondo del jazz, figo non vuol dire alla moda, vuol dire che si dà un tono, no? Che ha una posa. Ecco, Bix è considerato in genere il primo musicista cool della storia del jazz. Prima di Stan Getz, prima di Lester Young, che si è ispirato a Bix Beiderbecke e a Frankie Trumbauer, prima di Miles Davis, dove però cool appunto va inteso in un doppio senso. Da un lato questo modo di suonare controllato, dall'altro la consapevolezza di essere un riferimento, proprio un riferimento nel modo di vestire, di parlare, di comportarsi, di essere il più figo del gruppo e quindi di assumere una specie di posa all'interno di questo gruppo. Bix Beiderbecke è stato l'epitome del cool, il primo grande musicista di cool jazz della storia. Anche nel tipo di sonorità che sperimentava con gli amici. Per esempio, c'è un disco della fine degli anni 20 che ha questo titolo, dice per nessuna ragione speciale in do. È un pezzo in do. Dove c'è una formazione stranissima, è quello che si chiamerebbe, che negli anni 50 avrebbero chiamato jazz da camera, come la musica di Jimmy Giuffre. Il sax in do di Trumbauer, la chitarra di Eddie Lang e Bix Beiderbecke al pianoforte. Sì, perché Bix era un pianista formidabile. Vi ricordate che lui ha cominciato come pianista. E poi era passato alla cornetta, per curiosità. Lui accompagna il piano per tutto il pezzo, c'è una sonorità strana, non c'è la batteria, non c'è il contrabbasso, non c'è la tromba, il sassofono di Trumbauer è molto dolce, insomma è un suono strano che si sarebbe potuto apprezzare, che so, Jerry Mulligan anni 50, per capirci. L'unico momento in cui Bix prende la cornetta, vi prego di notarlo, è alla fine, proprio alla fine, alla fine, alla fine. Lui, mentre gli altri suonano, si alza dal piano, prende la cornetta, gli danno il tempo, e lui butta lì una di quelle sue frasi che poi magari Bill Challis avrebbe trascritto e adattato per orchestra. Come se niente fosse, tira fuori una frase melodica fantastica, brevissima, e il pezzo finisce. Un esempio di cool jazz del 27. Totalmente improvvisato, c'è un giro armonico di base. Questo è Bix. Thank you. così, dal pianoforte passa la tromba e il pezzo finisce alla cornetta. Avete sentito che Bix suona il pianoforte con uno stile molto ricco, molto denso. Da dove gli veniva questa ricchezza e questa densità? Gli veniva dalla passione per certa musica classica contemporanea. Molti hanno fatto il nome di Debussy e di Ravel. Io ho i miei dubbi che Bix abbia mai ascoltato dei dischi di Debussy e Ravel, però sicuramente conosceva bene un compositore che all'epoca era molto popolare e che era una specie di, diciamo, di cascame, di seguace di Debussy o di Ravel americano, di provincia, diciamo così, un po' di quart'ordine, che oggi è stato dimenticato, ma che all'epoca era molto noto, che si chiamava Eastwood Lane, che nel 1922 aveva pubblicato una serie di quattro pezzi, mi pare che fossero quattro, sì, di quattro pezzi per pianoforte, gli Adirondack Sketches, che Bix adorava, ci andava pazzo. Aveva i dischi, li ascoltava continuamente, e ce n'è uno che voglio farvi ascoltare in un'esecuzione moderna, La leggenda del lago solitario, che dà l'idea di quello che Bix ascoltava a livello classico, diciamo così. Quindi con atmosfere vagamente moderne, evocative, lontanamente impressioniste, con un gioco armonico piuttosto denso e soprattutto un clima melodico malinconico, distante. Dura poco più di 2 minuti, questo è di Eastwood Lane, uno dei pezzi più amati da Bix Beiderbecke. Probabilmente lui lo suonava anche. Una registrazione dal vivo. E questi pezzi si suonano solamente ai festival di musica di Bix Beiderbecke, perché non li suona più nessuno. Bix compose 4 pezzi per pianoforte in questo stile. Bix aveva una, come posso dire, una ambizione da compositore classico. Anzi, qui cominciamo a entrare nel gioco delle sue frustrazioni mentali. Un grande trombettista di jazz che passa tutto il suo tempo a suonare 8 battute di assoli, in un pezzo o in un altro, dentro delle grandi orchestre che non gli danno molta libertà. Jean Gaultquet, Paul Whiteman, gli fanno guadagnare un sacco di soldi, gli danno status, fama, perché diventa famoso, ma non gli danno soddisfazione. Addirittura qualcuno sostiene, perché Bix l'ha detto, che Bix non amasse neanche il jazz. Lo suonava perché era la musica del momento, perché così avrebbe fatto un po' di soldi. Ma il jazz gli sembrava quasi volgare rispetto alla musica che avete sentito adesso. A noi oggi questa cosa farebbe un po' sorridere, eppure per lui era così, dobbiamo rispettare questo pensiero. La sua ambizione era scrivere musica classica, figuriamoci, non riusciva neanche a leggerla la musica. Però, come vi dicevo, scriverla o leggerla non ha niente a che fare con la musicalità, lo sappiamo anche con Django Reinhardt, che è vero questo. Per cui lui ha scritto, ha composto 4 pezzi per pianoforte, con dei titoli atmosferici, un po' come quelli di Eastwood Lane, nella nebbia, nell'oscurità, lampi, luce di candele, e di questi 4 ne ha registrato almeno uno che è diventato il più famoso, anche se secondo me non è il più bello, In a Mist. In the Dark in particolare è bellissimo, sono stati registrati più volte da altri pianisti, potete trovarli facilmente. Io voglio farvi sentire In a Mist come Bix lo registrò nel 1927 al pianoforte. Anche qui però c'è un elemento di frustrazione. Che cosa successe? Successe che lui lo suonava a memoria. Il suo amico Bill Challis, quello che scriveva la musica per Paul Whiteman, ha trascritto questi brani mentre lui li suonava e li ha pubblicati su spartito. Si possono comprare, uno li può suonare come accade, come dei pezzi da concerto, come dei pezzi brevi, che so, di Schubert o di Brahms. Ma la versione che c'è su spartito, che adesso non vi faccio vedere, suona in modo diverso da come lui la suona al pianoforte. In realtà sembra che lui non avesse mai finito, ci stesse continuamente lavorando. Era frustrato anche in questo. Non trovava la soluzione finale. In questo, diciamoci la verità, era molto jazzista, cioè aveva bisogno comunque dell'estemporaneità per cambiare le cose. Ascoltiamo Bix che suona In a Mist. Sentirete qualcosa di molto simile all'atmosfera di Lane, ma con un ritmo più ragtime, più jazz. Dissonante, sentite. Thank you. qui scopriamo un altro lato di Bix Beiderbecke. Abbiamo detto che Bix sarebbe tutta melodia, ma qui invece è armonicamente molto complesso. È pieno di cromatismi, di alterazioni, di dissonanze. E che relazione c'è tra questo pianismo così denso e il Bix che suona? C'è una relazione. Anzitutto c'è in un posto che non ci aspetteremmo. Pensate che Bix arrangiava i pezzi dei suoi gruppi, pur non sapendo scrivere una nota di musica, dettava gli arrangiamenti. E in questi arrangiamenti troviamo tutta la sua sensibilità armonica, in particolare per queste dissonanze. A volte sono frammenti brevissimi. Lui diceva, si metteva al piano e diceva, fate così. E gli altri adattavano. Per esempio l'inizio di un pezzo che si chiama Somebody Stole My Girl, in cui c'è un movimento armonico cromatico dissonante proprio all'inizio del pezzo. L'ha inventato Bix. Ecco, quel tocco è bixiano. L'introduzione, poi sentirete la coda di un'altra canzone, Thus Well. L'inizio addirittura ha una parte di clarinetto che anticipa John Coltrane, è tutta cromatica, e poi invece sentirete subito attaccata la coda dove c'è un accordo di cosiddetta settima maggiore che non si usava mai all'epoca nella musica popolare. Così. Tema. La coda. È proprio un tipo di accordo che viene da quel tipo di sperimentazioni pianistiche. Poi ci sono le scale esatonali, che fa moltissimo in Emist e altrove. Cioè la scala esatonale è questa. L'ha introdotta, semplifico, nella musica occidentale Debussy, andava molto di moda nella musica popolare americana degli anni 20, e Bix la usa spessissimo, a volte anche durante gli assoli, nel break di Davenport Blues. Ok? E poi c'è uno degli esempi più incredibili. L'abbiamo già sentito, l'assolo di Jazz Me Blues. Alla fine, Bix fa una serie di. Fa una frase che sembra non avere niente a che fare con quello che. Diciamo con l'armonia. E poi fa questa frase qui, alla fine. La frase incriminata è questa. Questa. Una, lui con la melodia fa questo, fa così. Sotto l'accordo è questo. Non c'entrano niente. Lui proietta in chiave, diciamo così, orizzontale, nella melodia, quegli accordi che sperimentava al pianoforte. Voi dite, ma suona, è fluido. Eh sì, è il genio melodico di Bix, perché la frase è articolata, è complessa e scorre, anche se armonicamente è, tra virgolette, sbagliata. Ancora più audace è quello che succede in Clarinet Marmalade, che è un brano che non abbiamo ascoltato, ma andiamo a sentire da solo. Qui la cosa è ancora più pazzesca, perché il pezzo è molto veloce. E dentro questo pezzo veloce, Bix introduce delle note che poi sarebbero state tipiche del jazz degli anni 40, del bebop. Per esempio in frasi come questa, all'inizio. La nona. Uno dovrebbe fare così. O così. Invece lui introduce questa dissonanza. Charlie Parker l'avrebbe fatto. O Lester Young. Ma 20 anni dopo. E poi. C'è questa frase. Anche questa. E poi alla fine, a un tempo molto rapido, tira fuori queste note, sentite. scusate. Questa. Un qualsiasi altro trombettista avrebbe fatto così. Che sono le stesse note dell'accompagnamento. Lui invece fa non. Sono dissonanti, sono spostate, sono cose che apparteranno al jazz di 10-15 anni dopo. Da dove gli vengono? Da questi suoi esperimenti pianistici che proietta sulla tromba, anche a tempo molto rapido, per cui non sembra. E questo lo fa suonare molto moderno. Andiamo rapidamente verso la fine. Che influenza ha esercitato Bix Beiderbecke? Ma un'influenza enorme. Ma già da vivo. Bix era una figura di culto da vivo. Nel 1924 incide Davenport Blues e abbiamo sentito l'assolo. Ve lo faccio risentire, solo il pezzetto dell'assolo. Del 25, scusate. Ancora vivo, due anni dopo, un gruppo di suoi amici registra Davenport Blues, tra cui c'è il trombettista Red Nichols, un giovanissimo che lo imitava, e rifanno l'assolo di Bix, ma per tutta l'orchestra, per tutto il gruppo, come se fosse un oggetto di culto. Questo assolo è talmente bello che lo rifacciamo, ma orchestrato, tutti insieme. Bix è ancora vivo, eppure quel disco è già un culto. Per nota. Eccetera. Bix ha influenzato moltissimi musicisti neri. Il grande trombettista Rex Stewart faceva l'assolo di Singing the Blues pari pari a quello di Bix. Ma ha influenzato, a questo lo vediamo dopo, ha influenzato anche Lester Young, per esempio. Addirittura ci sono delle frasi del sassofonista Lester Young che sono prese pari pari dai dischi con Frankie Trumbauer e Bix Beiderbecke. È tardi, andiamo alla conclusione. Prima della coda vi faccio sentire quella che secondo me è una delle dischi più straordinari di Bix Beiderbecke, uno dei suoi ultimi, 1930. Qui vediamo l'abisso che c'è fra la musica leggera dell'epoca nella quale lui suonava e le sue idee. La canzone è ancora più brutta di quelle che abbiamo sentito prima. C'è Andy Secrest, che si vede anche nel film di Avati, che è un trombettista che suona con il classico stile sentimentale dell'epoca, fa questa melodia con la sordina, tutta nasale. Poi c'è un cantante svenevolo nel tipico stile da tenore dell'epoca, l'Alagna. Non Alagna, il tenore lirico, ma l'Alagna. Era tipico dello stile dell'epoca, siccome c'era la Grande Depressione, la gente voleva sentire musica lamentevole. Questo parla di una coppia che si è lasciata e dice saremo amici, sarò amico per te con piacere. Poi a un certo punto, a metà, il disco si rovescia. Entra Bix ed entra il jazz, si sveglia il gruppo. C'è un giovanissimo Gene Krupa alla batteria. Il tempo di fare l'assolo, poi il pezzo si calma e il cantante esala un ultimo sospiro alla fine. Prima lo ascoltiamo per intero, perché poi c'è una cosa interessante da notare. Esatonale. Questo è lo stile tipico del trombettista dell'epoca. Non è Bix, è Andy Seacrest. Poi la canzone non è così brutta. Vibratissimo. Bix non suona neanche, è lì solo per fare l'assolo. Comprenderete che ho dimenticato il nome del cantante. Un tenore proprio. Era tipico dello stile dell'epoca. Tutto lo dovete sentire. Questa è la musica leggera. E tra qualche istante arriva il jazz. Sembra che se ne va all'aldilà proprio, ma noi abbiamo due take di questo pezzo e qui sono Clemente, vi faccio sentire i due assoli di Bix, sono simili e diversi, sono uno più bello dell'altro, questa era la terza take, la prima è stata scartata, poi ne hanno fatto una seconda e una terza. Nella take numero due Bix suona in questo modo, sono due assoli meravigliosi, ripeto, simili e differenti, a voi apprezzare similitudini e differenze. This is the end. I'll be a friend with eccetera. Adesso ascoltiamo la terza tecnica. andiamo alla conclusione. Oh, salto un attimo questa cosa, scusate. Ho fatto un casino, eccolo. Lo sapete che lui fu molto amico di Hoagy Carmichael e la canzone Stardust è stata ispirata da Biggs. Anzi, adesso non vi faccio sentire tutto l'esempio perché è veramente tardi e siamo arrivati alla conclusione. Ma se voi ascoltate la canzone Stardust suonata da un trombettista nero che si chiama John Nesbitt, la strofa di Stardust sembra un assolo di Bix Beiderbecke. John Nesbitt in questa registrazione la suona nello stile di Bix. Sentite. Sembra veramente un assolo. Eccola. Questa è la canzone. Addirittura Carmichael sosteneva che il tema principale gliel'aveva ispirato Bix, la famosa canzone Stardust. Bix e Carmichael si erano conosciuti ai tempi dell'Accademia di Lake Forest e sono stati intimi amici, tant'è che poi Carmichael compare nel film Chimere. C'è un'altra canzone famosa di Carmichael, non me la faccio sentire per intero, ed è Skylark, che è una delle canzoni più belle della storia americana. Sapete qual era il titolo di lavorazione di Skylark? Bix Licks, cioè le frasi di Bix. Per chi non si ricordasse come fa Skylark, l'inizio, cantata dallo stesso Carmichael negli anni 70, con un'intonazione piuttosto incerta, ma è molto commovente. Skylark, have you anything to say to me? Nel titolo dice in a mist, nel won't testo. You tell me where my love can be? Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Una frase di Bix. Skylark, have you seen a valley green with spring? Where my heart can go a journeying over the shadows and the rain to a blossom covered lane. Ok, siamo arrivati alla conclusione. Ho una piccola sorpresa prima di lasciarvi per il pranzo, così vi, come dire, vi lascio bene. Qualche anno fa sono stati trovati dei filmati di Bix. Vi faccio vedere Bix in carne e ossa. Paul Merz, un musicista dell'orchestra di Jean Golquet, ha girato dei filmati amatoriali. In uno di questi, vedrete, si divertono, vanno allo zoo e si intravede Bix. Questo è il primo filmato. Purtroppo la qualità è molto scadente. Se possiamo abbassare le luci, grazie. Vi indicherò i punti in cui c'è Bix Beiderbecke. Questa, vi ricordate la foto che abbiamo visto prima? Adesso tra un attimo si intravede Bix. Faccio vedere. Eccolo qui. Eccolo. Deve essere uno di questi anche che passa, ma non è facile identificare con questa qualità. Fanno i buffoni. Vanno allo zoo e fanno i buffoni. alla il Charleston. Così. Qui sono un furgone, per una foto probabilmente. Qualcosa di simile alla foto che abbiamo visto prima, vi ricordate? È uno spaccato, come dire, di dietro le quinte di un'orchestra da ballo degli anni venti, dentro la quale c'erano musicisti, questi corrono dietro le ragazze, vedete? Insomma, sempre la stessa storia. Qui ci sono due che fanno finta di fare a botte, con un ragazzo nero. Goliardia, eh? Ricordiamoci anche l'età media di questi musicisti, pura goliardia. Anche perché la vita in orchestra era molto noiosa, si trattava di suonare tutte le sere la stessa roba e non tutti avevano, come dire, i privilegi di Bix di poter fare l'assolo. Peraltro, ops, scusate, ho sbagliato tasto. Peraltro, Bix, vi dicevo prima, era in orchestra e non leggeva la musica. Non solo, ma teniamo le luci spente, grazie. Bix beveva sempre di più e a un certo punto ha cominciato ad addormentarsi sul palco mentre suonava l'orchestra. Addirittura c'è un musicista che stava a fianco a lui, si ricorda che con la mano sinistra suonava la tromba e con la destra lo reggeva, altrimenti collassava su se stesso. Può far sorridere, ma è una cosa abbastanza drammatica, un ragazzo di 27 anni che non si tiene in piedi mentre suona la tromba. E poi lui doveva fare solo un assolo a un certo punto, per ogni pezzo doveva fare un assolo, per il resto non leggeva, immaginate la frustrazione, però l'assolo era il suo momento. Se Bix si addormentava, si trattava di svegliarlo al momento giusto, girava una leggenda che un musicista si era scritto sulla sua parte, quello che stava a fianco a lui, wake up Bix, sullo spartito, cioè il punto in cui on cue, si dice fra musicisti, il punto chiave in cui devi svegliare Bix. Qualche anno fa è stato trovato lo spartito. Questo è Bix nell'orchestra di Paul Whiteman. Qui ci sono varie indicazioni del musicista che era a fianco a lui e a un certo punto lui scrive wake up Bix, perché Bix dormiva, non leggeva le parti. Poi si sarebbe svegliato, si sarebbe alzato e avrebbe fatto un assolo meraviglioso come quello di I'll be a friend with pleasure. Concludo con l'ultimo filmato, sono pochi istanti. È un filmato muto che è stato sincronizzato con la musica giusta. È l'orchestra di Paul Whiteman. Qui vediamo Bix suonare. È appena un angolo, è relegato in un angolino, ma c'è. Eccolo! Thank you. riaccendiamo la luce, grazie. Siamo arrivati alla conclusione, vi ho fatto anche vedere Bix in carne e ossa che suona una parte trombettistica. Quel ragazzo che avete visto era, come dire, al top della sua carriera, suonava con l'orchestra più importante del mondo, guadagnava un sacco di soldi, ambiva a fare il compositore classico, era ignorato dalla famiglia perché faceva il musicista, ambiva a fare il compositore classico, era un grande trombettista di jazz, era al tempo stesso in cima al mondo e profondamente frustrato. Su questa immagine contraddittoria si è formata una leggenda, che è quella del trombettista bianco. Mi viene in mente, prima, mentre guardavo i filmati, c'è una battuta del film di John Ford, L'uomo che uccise Liberty Valance, quando un giornalista dice: fra la storia e la leggenda stampa la leggenda. Io direi che in questo caso la storia è più interessante. Grazie.